diciamo, che ti fa questo effetto, capito? Però lo puoi includere, lo puoi escludere, vabbè, a parte le memorie, puoi memorizzare i canali, insomma, e c'ha un po' di funzioni, solo che bisogna capirle. Ciao.